preparando la cama? Vosotros sabéis qué haréis. Yo voy a dormir. Porque estoy muy cansada. Aunque veo aquí que hay algunos que van a seguir la noche. ¡Qué pillos! Bueno, pues esta canción para dormir calentitos. Yo conté mi sento in culpa, solo un po', ma per me è già abbastanza. Non riesco più a guardarti, ma perché no? Non è stato in questa stanza. Mi lasciavi sempre sola, Dio lo sa. Quante volte ho detto no. Tornare insieme poi, che senso ha? Che senso ha? Fare l'amore poi, che senso ha? Yeah. No, no, le tue promesse. No, no, sempre le stesse. No, no, e poi non posso. Adesso non potrei. Sentito il cuore in gola, ma però era forse troppo avanti. Quando sei tornato in mente, io e lui eravamo già amanti. Dare un taglio a tutto il resto, tu lo sai. Senso ha fare l'amore poi, che senso ha? Do-do-do-do.